No, non c'è un'unica inchiesta, sono tante inchieste parallele. Quelle che già sono mature le chiuderemo spero entro l'anno, mi riferisco alle nascenti della dichiarazione di Spaduzza che riguardano la fase esecutiva della strage, altre che riguardano possibili ruoli di soggetti esterni, la trattativa e quant'altro, non sono in grado di fare ancora una previsione. Le opzioni possibili sono che sia stato commesso un gravissimo e clamoroso errore giudiziario oppure che si sia dolosamente artefatta la realtà costruendo con dei falsi pentiti una ricostruzione sbagliata del segmento esecutivo preparatorio della strage di Alameda per coprire le responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra. Concretamente, rispetto alla possibilità che queste ipotesi investigative avessero già avuto corpo in una direzione ben precisa, che è quella di un depistaggio doloso. A questa domanda si riuscirà a dare una risposta quando termineranno le indagini, però questo aspetto riguarda le ragioni per cui il gruppo Falcone e Borsellino, degli investigatori diretti da Renato La Barbera, presentò ai pubblici ministeri dell'epoca una ricostruzione investigativa che riteniamo clamorosamente sbagliata o falsa, da verificarsi questo. Altro aspetto è quello che riguarda i possibili mandanti esterni o comunque coloro i quali avrebbero potuto dall'esterno di Cosa Nostra, parliamo di servizi privati o quant'altro, dare un contributo alle indagini.